forum ufficiale, il forum mondiale dell'acqua ufficiale che si è tenuto a Istanbul, leggendo la stampa si sente fallimento, e io credo che la parola fallimento del forum sia una parola impropria, mal usata, perché per le multinazionali questo forum invece è stato ancora una volta, al quinto forum, dopo altri quattro forum che erano stati fatti prima, è stata la volontà di non dichiarare l'acqua un diritto umano, è stata ancora una volta ribadita. E idem si dica per quanto riguarda il fatto che non sia l'ONU a promuovere i forum mondiali, ma sia ancora una volta un ente privato. Quindi da questo punto di vista le multinazionali non hanno fallito niente. Il vero fallimento è il fallimento culturale, politico, etico della politica mondiale, dei partiti che governano in tutti i paesi e che hanno dimostrato di non avere la dimensione del bene comune e del bene pubblico, ma si sono asserviti sostanzialmente a delle multinazionali. Però è la prima volta che noi assistiamo ad un forte contrasto interno ai governi. Per la prima volta abbiamo due dichiarazioni, una che raccoglie 9 paesi che dicono l'acqua è un diritto umano e il forum mondiale deve essere fatto dalla ONU. La seconda con 20 paesi che la votano, compreso la Francia e la Spagna, che dicono l'acqua è un diritto umano.